Non le parla benissimo italiano perché tu hai giocato in Italia. Sì, sì, io ho giocato. Yannick, la nuova promessa del tennis italiano, ti piace? Mi piace per te, un sparring partner per te. Ah, come sparring? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Luis Alberto si libera, Luis Alberto col destro! Un grandissimo intervento di Silvestri. Ancora Luis Alberto, palo! Prova Luis Alberto e sfiora ancora una volta il gol. Volevamo la vittoria con tutte le nostre forze, davanti alla nostra gente. C'è rammarico per il risultato, però i ragazzi, insomma, hanno fatto 24 tiri, hanno preso due pali, 3-4 miracoli del loro portiere, e quindi a volte bisogna accettare anche un pareggio, anche se ci va molto stretto. Oggi abbiamo fatto una partita fantastica perché abbiamo giocato contro una squadra di qualità tecniche e fisiche allucinante, cioè veramente forti. Non ha niente di meno rispetto all'Inter e alla Juve. Diversa, però di mia esperienza dico ci sono tre squadre forti alla pari. Pareggiare qua, giocando così, non fare barricate ma andare ad attaccare gli alti, non è stato facile. I ragazzi sono stati splendidi. Cioè oggi veramente sono stracontento della prestazione dei miei ragazzi. Buongiorno Pierluigi Pardo. Buongiorno. Quando ti esibisci a Sanremo? Ma no, al momento no. Volevo fare un duetto con Calcutta, volevo cantare Hubner, ma non l'abbiamo più fatto. No, non l'abbiamo più fatto. Molto triste per questo. Grande canzone Hubner, eh? Grande canzone Hubner. No, non lo so, non sono in grado di dare queste valutazioni. Ma aiuterà. Eccolo qui. Ciao Ivan Zazzaroni, buongiorno direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Sanremo niente. Anche tu. Io non mi hanno scelto la canzone. Ah, capisco. Amadeus mi ha bocciato. Ti ha bocciato? Come si permette, d'altra parte? Come si permette? Ero in gara con come si chiama quello mascherato? Ha vinto sì, lui. Achille Lauro. No, Junior Kelly. No, scoprire tutte le mie la mia perché profonda ignoranza. Era molto più provocatore della sua. Non ho dubbi su questo. Senti, come hai trovato Balotelli in queste? L'ho trovato come ho sempre pensato che fosse, perché lo conosco da un po' di anni. Cioè, è un ragazzo sicuramente ogni tanto ha qualche avuto, non adesso, non ultimamente, qualche leggerezza di troppo, ma sciocchezze. Oggi ha finalmente spiegato alcune cose che erano da spiegare. Però è uno che vive la sua vita, che cerca di fare cose bene. Più uomo ho trovato, quello sicuramente più uomo. Sì. Più riflessivo, più sempre divertente da questo punto di vista. Però io la penso come Prandelli. Mm. Cioè lui è profondamente un buono. È chiaro che cerca più gol, sta lavorando molto per questo. Segnare nel Brescia non è semplicissimo, però. No, anche perché a Brescia, con Cellino, ogni volta che vai al campo devi chiederti chi allena. Ma sai, Cellino ha una... non parlare male di Cellino con me perché... Sto parlando male, sto facendo cronaca. Esatto, Cellino ha un'idea di calcio molto personale, come molti altri presidenti peraltro. Diciamo che lui è un decisionista, prende, cambia, sposta, lo conosci, sai com'è fatto, per cui quando vai a lavorare con lui sai che ti può dare tanto, ma ti può anche liberare in pochi istanti. Io poi tra l'altro ero lì l'ultimo giorno di Corini... che mi aveva detto qui si fa la guerra, si battaglia, e purtroppo non ho avuto l'opportunità di fare la guerra la prossima domenica. No, a proposito di quello, a me è venuto in mente mille volte Napoleone, no? I generali io non li voglio buoni, li voglio fortunati. Corino onestamente ha avuto una sfiga mondiale, ha fatto anche ottime partite, certo, cioè, pensa soltanto con l'Inter, con la Juventus, cioè, poi alla fine andava sempre così, ma anche una delle ultime in casa. Ha fatto molto male secondo me a Bologna. Io questo l'ho detto perché l'ho vista, Ecco, lì non ho visto il Brescia, non l'ho riconosciuto, il Bologna ha tirato in porta 164 volte, però è finita 2-1. Io e Pierluigi siamo estimatori di Balotelli, io in particolare, non lo nego certamente. Va detto che in questa stagione, se vuole inseguire gli europei, beh, forse ha perso il treno. Beh, treni lasciamo stare oggi, giornata nera, ha perso il battello, facciamo così, per gli europei, perché non sta facendo una grande stagione. Sai che io ancora non ne sono convinto, perché Immobile è evidente che andrà agli europei, perché se l'è meritato, ha fatto 25 gol, è una grande condizione, ieri non ha fatto una grande partita, ma è 3 anni che va in doppia. Sull'altro centravanti io non sono ancora convinto, certamente Belotti sta facendo molto bene, Mario non ha precedenti entusiasmanti, questo è evidente, ha una parte di stampa contro, ma ha un allenatore che lo adora, che aspetta soltanto che lui dimostri, gli mancano ancora 16 partite, chissà, magari da qui alle prossime 16 fa cose importanti e si rivaluta, perché lui è diverso dagli altri. Cioè, sì, non ho dubbi su questo, ma non li abbiamo mai avuti, né io né Pierluigi. Cioè, non abbiamo mai avuti né io né Pierluigi sulle qualità. Io invece ti dico che sono un po' deluso fin qui dalla stagione di Balotelli, sì, anche dall'aspetto umano, sul quale non mi permetto di giudicare, ma anch'io ho le stesse sensazioni di un ragazzo comunque sicuramente ha commesso degli errori, ma con delle fragilità essenzialmente di un ragazzo buono, questo sono abbastanza convinto, ma lo conosco poco, insomma è una mia impressione che non ho cambiato. Dal punto di vista tecnico, secondo me questa stagione rappresenta un po' un passo indietro, perché insomma quella era una scommessa che tra l'altro lui aveva fortemente voluta, perché aveva un'offerta comunque suggestiva dal Brasile, ha scelto di venire a Brescia. Sicuramente l'avvio di stagione con la squalifica non gli ha dato una mano, quindi la partenza in salita, però insomma capisco anche che non sia facilissimo segnare tanti gol a Brescia, come dice Ivan, però insomma qualcosa in più mi aspettavo, lo dico sinceramente. No, ma anche lui si aspettava di più, cioè, non è, l'ha riconosciuto, cioè non è non è soddisfatto per niente della stagione, ma è chiaro che dice sono ancora in tempo per rimediare, vediamo se sarà in tempo per rimediare. Allenato è allenato, fisicamente sta molto bene. Ti ripeto, giocare nel Brescia come nelle squadre dal dodicesimo posto in giù non è semplicissimo, però c'è gente che ha fatto anche doppia cifra in squadre di questo livello qua, quindi bisogna vedere se riesce a ingranare. Ma adesso a giocare con continuità, Ivan, perché quella che gli è mancata in maniera clamorosa. Tanto ha parlato molto di Raiola, da cui abbiamo avuto nuove lezioni di storia dell'arte, perché dopo Balotelli Gioconda ha detto Pogba come Basquiat e De Ligt mi ricorda Rembrandt. Non ho approfondito l'argomento. Sì, ma tutto è opere che lui ha in casa. Sa va a dire. È un messaggio in codice per dire che potrebbe anche venderle a un prezzo. Esatto, lui ovviamente. Esattamente. A proposito di occasioni perse, quelle di Balotelli, vabbè, ne parliamo quando volete, tanto è sempre argomento d'ordine del giorno. Occasione persa anche per la Lazio, Juventus non le sbaglia. Non l'ha persa, ha giocato un primo tempo sensazionale, quando è partito Luis Alberto, che ieri primo tempo mi ha impressionato sinceramente, non perdeva un pallone, gli usciva tutto, è quello che ha tirato poi più volte, due pali, ma anche due parate sono suoi tiri. Ha tentato nel primo tempo con una grande velocità di vincere la partita, non c'è riuscita perché il Verona sta molto bene, dietro a 3 Marcantoni che danno volta a Ramani e Gunther e Kumbulla, sono veramente 3 giocatori in grande condizione. Poi ripartiva con Zaccagni che va a 2000 all'ora, Borini ci ha provato, cioè diciamo che per 30 minuti del secondo tempo è stata un po' in difficoltà, poi ha ripreso una parte finale con questo arrembaggio. Ma le partite ci vuole anche un po' di fortuna, ieri non l'ha avuta. Pierluigi, sei d'accordo? Guarda, volevo andare all'Olimpico, poi avevo una favolosa febbre di 37,2 e quindi l'ho vista da casa. E sinceramente, secondo me non è un passo indietro sul piano del gioco, nel senso che la Lazio comunque ha prodotto tanto anche ieri. Il Verona è onestamente impressionante per la sua capacità di stare in campo, ma soprattutto per la personalità con la quale affronta qualsiasi avversario. Non si adatta all'avversario, ieri non ha mai rinunciato comunque alla ripartenza, ha avuto anche delle occasioni. Sono d'accordo con Ivan, cioè sicuramente rispetto ad altre partite di questa fase della stagione, in alcune la Lazio era stata anche oggettivamente fortunata, ammesso che la fortuna esista, perché io non ho ancora capito se esiste, però sicuramente ci sono state delle partite risolte nei minuti finali e ieri sono arrivati questi pali, la parata di Silvestri all'ultimo minuto, insomma ieri la Lazio poteva vincere, anche se va detto che Verona non ha veramente rubato nulla, ha giocato una partita di grandissima intensità, ha avuto occasioni. La forza di una squadra in una partita come quella, di una squadra sulla carta più debole, che viene fuori casa da Misuri, dalla capacità, secondo me, di ripartire in maniera efficace. Ieri il Verona l'ha fatto. No, è probabilmente la più grande rivelazione del campionato in questo momento nel rapporto qualità-prezzo, il Verona. Lì bravo Juric, sì, che è un altro allenatore che è stato... Che Parma-Lazio adesso sarà un test fondamentale, perché... Determinante. È determinante, sì, perché ci sono due squalifiche comunque che pesano. Dal punto di vista, ti ripeto, del gioco e dell'impressione di squadra, ieri io non ho visto un passo indietro, assolutamente. Ho visto una Lazio, cioè confermo quanto di buono ho visto e ho detto in queste settimane. Quindi secondo me è solo il risultato. Però è chiaro pure che per una squadra che comunque è l'outsider delle tre, anche da un punto di vista proprio di aspettative, quella che era una grande occasione comunque persa ieri, vai a Parma su un campo non facile, senza due assenti, insomma, se vince secondo me si rimette completamente in carreggiata. Se dovesse fare un piccolo passo indietro, insomma, poi adesso tanto arrivano gli scontri diretti, poi c'è Lazio-Inter, quindi insomma, il campionato è lungo. Cioè, siamo la sensazione è quella di una sliding door del campionato in questo momento per la Lazio, ma anche per l'Inter, perché c'è derby, poi la Lazio gioca a Parma, poi c'è Lazio-Inter, più sliding door di questa. A proposito, sai che Radio 24 vuole essere anche una radio di servizio. Allora, c'è un ascoltatore, si chiama Michele, che mi scrive una mail dal South Carolina, dice che ci ascolta tutti i giorni. Ma dice, di a pardo che non riesco a rivedere l'ultima puntata di Tiki Taka perché non funziona il podcast, quindi provvedi per favore per Michele da South Carolina. Adesso chiamo il centralino di Cologno, no? Bravo, vabbè, fallo per Michele. Verso un derby a cui chiediamo molte cose, a proposito di sliding doors, direttore. Beh, innanzitutto devo dire che delle tre squadre davanti la Lazio è quella che gioca decisamente meglio, il più bel calcio. Le altre risolvono quasi sempre con individualità, sia la Juve che l'Inter. Al derby chiediamo, ma sai, più di altro il Milan che chiede, ma sia anche l'Inter evidentemente, perché è una partita che potrebbe essere disvolta. È una partita molto complicata per l'Inter, secondo me. Il Milan è in crescita relativa. Molto relativa, capito, secondo me. Molto relativa, molto. Esattamente. È chiaro che Ibra è fondamentale per questa squadra. Individualmente ha degli ottimi giocatori il Milan, non è che sia, però non ha ancora trovato quella superiorità, quell'autostima che secondo me gli serve in questo momento. L'Inter deve continuare a dimostrare di avere la capacità di fare risultati. Quindi non sei d'accordo con Arrigo Sacchi, che parla di una Juventus in crescita, mi pare. Beh, sai, ho visto la partita che ha fatto è stato di Napoli, francamente, anch'io credevo che fosse una Juventus in crescita, perché 5 partite, 13 gol, 15 punti. Poi arriva Napoli e ha giocato una pessima partita, non ha tirato in porta praticamente, l'ha persa. Ha ripreso a giocare abbastanza bene nell'ultima. Non lo so, io sento sempre dire che si sta parametrando alla Champions, sta misurando le sforzi, non lo so sia così, sinceramente, non te lo so dire. Tutta questa continuità francamente ancora non la vedo. Quest'anno ha perso queste partite con la Lazio, ha perso 2 volte con la Lazio, ha perso con il Napoli. Secondo me non ce la porta da casa Verona, anche se Verona è stanco, perché ha giocato veramente 3 partite nell'arco di pochissimi giorni. Sì, poi San Siro col Milan, l'Olimpico con la Lazio, insomma, settimana santa anche per il Verona, che si chiuderà con la Juventus. Io continuo a pensare che il derby sia molto più importante per l'Inter che non per il Milan. Alla fine, in fondo, il Milan, sai, non sa molto dove andare. Ma sta crescendo il Napoli, per cui questo sesto posto, è vero che ne hai 2 o 3 davanti, c'è il Parma, il Cagliari, quello che ti pare, però il vero problema per il Milan potrebbe essere il Napoli se continuasse ad avere continuità. Fuori dall'Europa, comunque, sì, è vero, è l'Europa lì, quello che ti pare, però non è proprio un risultato soddisfacente per il Milan. Quindi sì, Credo che l'obiettivo sia quello. Sì, allora vi voglio rubare una battuta anche su un altro argomento. Abbiamo risentito Spalletti, e faccio sentire anche a voi. Sono stato contattato dal Milan, come sapete, dopo poco che ero stato esonerato, poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Discorso concluso? Sì, sì, discorso conclusissimo, anche perché anche loro hanno scelto un altro allenatore giovane, emergente, bravissimo come Pioli, esperto. Versione confermata dall'Inter, ha detto vabbè, gli abbiamo proposto di pagarlo una milionata, lui ha contratto per quest'anno e per l'anno prossimo, voleva tutti i soldi di quest'anno, non ci siamo messi d'accordo, dunque Spalletti rimane a libro paga dell'Inter. Se vogliamo anche una soluzione abbastanza particolare, Pier? Molto, devo dire, molto onesta per la sua presa, cioè voglio dire, ha detto la verità, verità che in qualche modo secondo me fa capire che insomma non ha considerato troppo attraente l'opzione Milan. Io credo che il Milan di qualche stagione fa, che sicuramente si era fatto avanti per la sostituzione di Giampaolo, il Milan di qualche anno fa avrebbe convinto Spalletti anche a rinunciare a qualche soldo pur di tuffarsi in questa avventura. Da un po' la sensazione dei tempi che passano, però sono stato... Beh sì, sappiamo che l'offerta è arrivata, Spalletti sicuramente come tutti è, giustamente si fa i suoi conti, ci mancherebbe altro, però quella era una bellissima offerta, probabilmente Milan di qualche anno fa avrebbe avuto un fascino diverso, perché insomma da quello che sappiamo l'offerta lì sicuramente gli è arrivata e lui ha preferito continuare in questo modo, legittimamente. Sì, anche è vero che però gli allenatori ci dicono, no, dimmi sul derby e poi chiudiamo con Ivan sull'argomento Spalletti. No, sul derby è complicatissimo, comunque il Milan è in crescita. Non clamorosa, ma comunque in crescita, perché l'Inter le partite ultimamente anche quando le vince non è che proprio se le porti da casa, insomma anche a Udine comunque la sbloccata nel finale, quindi secondo me non c'è oggi una partita in Serie A dove l'Inter vince 4-0 dopo mezz'ora, e tantomeno il derby. Il Milan è in crescita, è un trappolone, poi è ovvio che l'Inter ha comunque qualcosa in più in termini di qualità, ma insomma è complicata e bellissima, devo dire, perché è vero che il Milan ha qualcosa, cioè per l'Inter è più stringente l'importanza di questa gara sicuramente, però anche il Milan comunque ha delle ambizioni, il Napoli giustamente si è ripreso, Roma e Atalanta che vanno a un ritmo così qualche ambizione te la possono dare, se il Milan avesse vinto contro il Verona avrebbe accorciato di brutto, quindi insomma anche qui è lungo il campionato, però sicuramente l'Inter ha una tensione, ha un'importanza questo match per l'Inter superiore. Ivan, invece, per chiudere con te, argomento Spalletti, gli allenatori spesso ci raccontano che ma noi i soldi non sono così importanti, abbracciamo un progetto, ora se rifiuti il Milan perché non ti sembra abbastanza progettuale vuol dire che il Milan è messo male. Ma non credo che fosse una questione di non essere progettuale, è il Milan, non è che è progettuale, tu avevi uno scenario con tre vie. Allora, o il Milan mi dà i soldi che mi deve dare l'Inter, evidentemente, magari aumentandoli per 2-3 anni, quindi allungandomi il contratto, e a quel punto io Spalletti non ho problemi a sciogliere il rapporto con l'Inter, gli dico non voglio nulla, liberatemi, l'Inter mi libera. L'Inter effettivamente aveva proposto 1 milione qualcosa, invece di lui prendeva 5 qualcosa dall'Inter. Adesso non ricordo se era ancora per un anno o per due. Questo più il prossimo. Esattamente. Non sono esattamente. Pochi soldi. Poi raddoppiali, perché sono soldi netti all'ordo. L'Inter poteva anche dire, ok, ti liberiamo, quindi risparmiamo tutti quei soldini lì. E lui avrebbe potuto dire, vado comunque perché mi piace l'idea di continuare a lavorare. Quindi non c'è uno che ha fatto bene e uno che ha fatto male. Secondo me hanno fatto tutti male. Ciao Ivan, grazie. Lo guardi Sanremo stasera? C'è Ronaldo? Se fosse stata l'offerta della vita, magari Spalletti avrebbe. Beh, chiaro. Solo questo, perché ha fatto benissimo, tutti hanno fatto i loro calcoli. Hai ragione, ha fatto l'Inter, ha fatto la Roma. Insomma, il Milan è una grande opportunità, al di là del fatto che sia un fondo che lo governa o meno, non lo so, ti dico, non so dirti chi ha sbagliato realmente, per me hanno sbagliato 2-3. Morale, guardi Sanremo, c'è Ronaldo stasera o no? Credo di no, non l'ho ancora visto perché per lavoro naturalmente, però non penso stasera di poter vedere. Ronaldo non ti fa cambiare tu sei un asino, perché tu mi vuoi provocare su queste cose, hai capito? Devo dire che sarei teoricamente più interessato al Georgina, ma credo che a livello di stipendio non sono competitivo. Ciao a tutti, ti voglio bene, ciao. ciao Ivan Zazzaroni, ciao. Tu guardi Sanremo stasera? Ma non lo so, Ieri l'ho visto, ieri dopo Lazio Verona l'ho visto. Tra l'altro devo dire che comincia tardi, finisce tardi, per cui è perfetto per il post partita. Sono i tuoi orari alla fine. Sì, mi sono perso, non lo so, 6-7 canzoni dal fischio finale di Lazio Verona in poi. Sì, guarda, è un fenomeno, gli ascolti sono straordinari, e quindi complimenti ad Amadeus e a tutta la squadra. Ho visto che è un prodotto rispetto al passato, dove c'è la gara, ma soprattutto ci sono grandissimi ospiti italiani. Ieri c'era questa reunion dei ricchi e poveri che sicuramente non ti sarai perso, poi c'era Massimo Ranieri con Tiziano Ferro, poi è arrivato Gigi D'Alessio, quindi a un certo punto, insomma, poi credo che il rapporto fra canzoni fuori gara e canzoni in gara sia stato alla pari, e però insomma sicuramente è un grande evento italiano. C'è stato anche Djokovic. Poi è arrivato, certo, poi c'è stato Djokovic. No, ma io ti dico, secondo me poco snobismo, è un grande evento e insomma anche chi non lo segue in realtà lo segue. Ma chiaro, Marta Cagnola per esempio non si perde nulla ormai da anni perché è la nostra inviata. Ciao Marta. Sì, sono l'inviata da 20 anni, mica poco, Ho già fatto qualche campionato, l'ho fatto. Cioè dal quartetto Cetra praticamente. Beh dai, non però c'era ancora tipo Baud, c'era ancora Raffaella Carrà, c'era ancora quella televisione lì, ecco. Pensa che al prossimo giro ti becchi Pardo, che in discrezione conduce lui. No. Oppure canta, non è chiaro. Ma no, dobbiamo fare un duetto io e Pardo. Ma io ci sto, lo sai che io i duetti li faccio volentieri sempre comunque. Compagnoni, dai, 15 dai. Anni fa, dicevi? Compagnoni fa un giorno a Sanremo, questa cosa mi dicono tutti, ma non ci vado a Sanremo, sto qua, sto tanto bene. No. E, meglio la Champions, però grande rispetto per Sanremo, assolutamente. Poi è la contaminazione di Sanremo, no? È diventata, Marta, in questi ultimi anni un elemento fondamentale, nel senso che è musica, però è anche costume, è anche messaggio civile, insomma è un evento, ripeto, è un evento con la E maiuscola. Sì, sì, è vero, è vero. Ma pensate anche solo ai testi delle canzoni, se uno legge i testi delle canzoni di 70, 60, 50 anni fa sono completamente diversi da quelli di oggi. I contenuti sono diversi e i contenuti ci assomigliano sempre. Poi da quando ci sono contenuti altri rispetto alla musica, agli ospiti, le polemiche, è uno specchio di quello che accade un pochino anche nello sport, dai, perché poi vabbè, se andiamo a vedere il famoso Sanremo interrotto per vedere la discesa di Alberto Tomba, beh insomma anche la storia dello sport è nella storia. D'altra parte ieri c'era uno dei personaggi iconici dello sport di questa epoca. Come ti è sembrato Djokovic? Lui è, a parte molto amico di Fiorello, quindi è un suo sparring partner comico, sempre efficace. Secondo me ha cantato bene, a me è piaciuta molto la moglie, perché sembrava sinceramente contenta ed emozionata di vederlo su un palco in un ruolo diverso, perché lei avrà visto milioni di partite del marito, ma vederla così emozionata, vederlo cantare, mi ha fatto molta tenerezza. Prima parlavate di Giorgina. Stasera arriva Giorgina. Sì, certo, arriva. Non l'abbiamo ancora vista di persona perché era in viaggio, quindi non è venuta alla conferenza stampa, e ovviamente la domanda è: sola o ben accompagnata? Non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Amadeus sostiene che ieri sera non fosse nemmeno di Djokovic, quindi tutto può essere, cioè potrebbe esserci qualsiasi sorpresa, voglio dire. Io mi aspetto qualsiasi cosa, anche che Amadeus si travesta da Cristiano Ronaldo. No, può succedere di tutto, che lo faccia Benigni, ecco. Di certezze al momento non c'è nemmeno una, se non il fatto che lei arriverà. Lei arriverà, Ronaldo chi lo sa, gli ha lasciato una poltronessima in tribuna, dicono che aveva prenotato un ristorante a Sanremo tutto per sé, ma in ogni caso, ma comunque vada, sarà una bella sorpresa, e se non verrà ce ne faremo una ragione tutti quanti insieme, giusto? Ce ne faremo una ragione, perché alla fine poi avremo anche voglia di sentir cantare delle belle canzoni. Certo è che poi sono quei momenti che rimangono un po', che poi rivedi le teche, vabbè, siamo curiosi, vediamo un po'. Io sarei molto curiosa di vederlo, mi piacerebbe. Sì, io lo preferisco sempre in pantaloncini e maglietta, perché mi diverte vagamente di più. Marta, grazie, ciao. A presto, Carlo, a presto, ciao. Pier, ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Non so cosa possa aggiungere Ronaldo a Sanremo se non... Tutto si combina, dai, sabato comunque lo vediamo ed è la cosa più importante della prima partita post compleanno. Però quello che diceva Marta è interessante, io cito sempre l'esempio di Filippo Galli, che mi ricordo fece la sua prima telecronaca alla seconda voce con me tanti anni fa a Sky, dove fosse un quarto di finale fra Lione e Porto, e mi colpì tantissimo perché era emozionato, mi chiedeva consigli, io dicevo ma come, ma tu hai vinto le coppe dei campioni, e sei stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, è sempre questo, per cui posso anche capire diciamo l'emozione della moglie di Djokovic ieri o l'emozione dello stesso Djokovic, perché comunque fa parte della, no, parte della... Cioè, comunque ognuno ha una sua comfort zone, tu puoi essere il più figo del mondo a giocare a tennis, però un conto è giocare a tennis, un conto è cantare all'Ariston. Sì, un conto è presentarsi sul campo centrale dell'Australian Open e vincere l'ennesima finale e subito dopo precipitarsi a Sanremo e magari sentirsi a disagio, è il bello della diretta. Ti faccio sentire un WhatsApp e poi ci fermiamo. Ciao Genta, Turrini, avete visto ieri sera Bartoletti sulle note dei ricchi e poveri? Mamma mia, sembrava un bambino, che spettacolo come ballava. Ovviamente un saluto a Marino Bartoletti, che è dominatore del Festival di Sanremo, questo da N edizioni. Pierluigi, sai cosa facciamo dopo la borsa? Ci colleghiamo con Stefano Meloccaro. Stamattina gli ho mandato un messaggio scrivendo dove sei. Mi arriva verso l'una la foto di Meloccaro in tenuta da basket sul campo dei Brooklyn Nets. Ti rendi conto? Ci fermiamo un attimo. È peato lui, altro che. Ci fermiamo un attimo. Da tifoso dell'Hellas devo solo dire che mi sto divertendo e sto godendo come una scimmia. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Novak Djokovic! Conoscevi Amadeus? Certo. Sai, ti do un consiglio, prendilo come ufficio stampa, la carriera ti durerebbe 3 giorni. Hai appena vinto l'Australian Open? Sì, sono ritornato ieri e abbiamo parlato oggi e mi hai invitato, grazie per organizzazione anche di Sanremo, grazie. Ma lui conosce le canzoni ovviamente di Sanremo? Sì, io ti posso rispondere per lui, a lui gli piace Eros, Ramazzotti. Ah! È Terra Promessa, no? Siamo pronti? Sì. Vai! È una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Credo, mi permetto di dire che forse Djokovic ha qualche colpo migliore. Stefano Meloccaro, cosa dici? Buongiorno Carlo, beh, ma se si allena pure lì tempo un mese, poi sai quanti ne mette in fila anche sul campo di Sanremo, se. Addirittura sul palco, riesce a vincere anche sul palco dell'Ariston. No, a proposito di campi, no, io vorrei, Pierluigi, io vorrei insomma associarmi a Stefano Meloccaro, perché tu perdi a padel e Totti ti scherza. Lui mi manda una foto, è sul campo dei Brooklyn Nets in tenuta da basket. Il confronto è impietoso, devo dire. Vabbè, è impietoso, capito? È gente che viaggia. Dove sei? Dove sei, Stefano? Allora, mi trovo a New York. Questo, cioè, no, devo dire che c'è un bel progetto. Ieri ho vissuto veramente una grande emozione, perché giocare su un parquet vero, dell'NBA vera, prima di una partita vera come quella dei Brooklyn Nets di ieri, è stato veramente un momento molto molto molto bello. Proprio, cioè, puoi dire di aver giocato una partita a basket. Poi Pier conosce bene la realtà, perché parliamo di quella che era la Basket Artisti, che adesso è diventato Italian Basketball League. È un progetto che a New York coinvolgerà imprenditori italiani in un tour per i playground di New York, ed è stato aperto ieri con questa partita giocata appunto sul parquet vero dei Brooklyn Nets, quelli veri, della Barclay Arena, quella vera. E noi qui, E noi qui. Fantastico. No, non c'è giustizia. Fantastico, non c'è giustizia. E soprattutto perché io e Carlo non siamo stati invitati? Cioè, perché? Beh, ma guarda che è solo questione di tempo, e poi questa è una cosa che andrà avanti. Perciò non è detto che Radio 24 non possa diventare la radio ufficiale di questo sport che ho fatto decentemente della mia vita. Decentemente, gente, poi un mezzo fuori classe. Tu da che livello hai giocato? Io? Sì. No, io minors, C2, roba così, C1. Roba seria. Minors, mica come il Verocaro che gioca sul parquet dei Brooklyn Nets. Tra l'altro oggi alle 21 chiude il mercato NBA, quindi stiamo in campana, perché se ce lo soffiano i Brooklyn Nets. Poi abbiamo dei problemi a parlare di tennis. Brooklyn Nets, li hai visti poi? Sì, come no, abbiamo visto la partita, ma ieri sera giocavano contro Golden State, ma Golden State, se andavamo io, te, Carlo e veniva Pierre, gli davamo una mano, perché hanno preso 40 punti proprio ma senza Steph Curry, che stava lì tutto carino in tribuna a guardarsi la partita in giacchetta nera, sai, non sono veramente nulla, dunque è finita tantissimi a molto pochi, però vale sempre la pena, insomma. Senti, invece Djokovic, non canterino, ma quello che vince in Australia, anche lì mi viene in mente una canzone, era già tutto previsto. Non era così tutto previsto, però è stato comunque una grande dimostrazione di forza, cioè Djokovic potrà non essere proprio simpaticissimo nel mondo del tennis per una serie di atteggiamenti che ha sul campo, Carlo, e ne abbiamo già parlato, però da un lato dobbiamo riconoscere questo, cioè che Federer e Nadal sono probabilmente più nel cuore dei tifosi, dall'altra però dobbiamo riconoscere che è mostruoso, è fortissimo, e sul campo anche questo suo atteggiamento lo aiuta a vincere di più. Poi vedi, ieri sera a Sanremo ti dimostra che poi quando vuole è anche simpatico e sorridente, però l'obiettivo degli sportivi non è quello di essere simpatici, è quello ma lui di vincere. Che sia simpatico non c'è lontano. Dubbio, perché le imitazioni di Djokovic sono le leggendarie, no? È un'evoluzione, cioè all'inizio Djokovic era molto simpatico a tutti, o no? È così, quando era ragazzino è così. Poi dopo ha tramutato se stesso in spietato sanguinario e urlatore alle folle, eccetera. Ha avuto la insorte di trovarsi contro il miglior Federer anziano. Adesso è diventato quasi anziano pure Nadal, e lui nelle preferenze degli sportivi arriva un po' dopo questi due. Però se continua così arriverà in testa alla classifica degli slam vinti, che conta di più. Sì, ma a parte il fatto che loro non si rendono mica conto dell'età che hanno, prima ho sentito Valentino Rossi alla sua ultima presentazione ufficiale in carriera, salvo sorprese, ultimo giorno da pilota ufficiale di Yamaha, perché l'anno prossimo farà dell'altro, non si sa bene cosa, se correrà ancora oppure no, e diceva, vabbè, ma Lorenzo in fondo, lui è ancora giovane. Com'è ancora giovane? Si è appena ritirato. Bene, mi sembra che stazzi 34 o 35 per un atleta non sono pochi. Ma di Federer, Pier, a me, cioè di Federer, di Djokovic, a me ha sempre entusiasmato la sua capacità proprio di giocare contro il pubblico e contro l'amore degli altri per i suoi avversari. Perché, insomma, un conto è quando hai lo stadio del tennis metà a tuo favore, con qualche fa. Lui ha vinto delle finali veramente giocando con la torsida tutta contro, questo me lo fa apprezzare particolarmente. Perfetto, senza nemmeno il settore ospiti ti fa per lui. Sì, vabbè, questo fa parte, Stefano ce l'ha spiegato benissimo, in realtà lui, almeno per il grande pubblico italiano, sia uno simpatico, a parte che il link con Fiorello certamente gli ha fatto bene, perché stiamo parlando di una delle persone giustamente più amate e più talentuose del paese, direi, quindi il fatto che siano amici gli ha sempre fatto bene. Poi è chiaro che invece nel mondo più specialistico del tennis, ma secondo me l'elemento fondamentale è quello lì che dice Stefano, cioè è chiaro che quando tu hai il romanzo, lo storytelling di Federer e Nadal, che hanno più anni di lui, nel caso di Federer anche in maniera molto significativa, e che insomma si crea tutta un'epica, no, di quel tipo di racconto, che secondo me non lo ha aiutato nel conquistarsi simpatie, però appunto poi alla fine lo sportivo vuole vincere essenzialmente, no? Non vuole essere simpatico e perdente. Stefano, chiedo anche a te, perché è l'argomento del giorno, poi continueremo a parlarne noi. Derby di Milano, dagli Stati Uniti, una tua idea? Sono molto curioso. Noi tra l'altro domenica mattina saremo in collegamento col derby di padel, visto che non succede nulla a caso. Domenica mattina a Milano, al City Padel gioca non derby di padel, ex Milan contro ex Inter. Per cui noi saremo in diretta a San Demonte con questo evento qua, e ci sono tutti, c'è Zanetti, Cambiasso, ci sarà Costa, Curta, Alberti, chiunque. E anche Rino, anche Rino Ceppardo però. Guarda, non escludo di, devo smaltire la febbre, ma non escludo. Demetrio mi ha invitato, faccio un set per squadra, ovviamente per par condicio. E no, bello, ma, insomma, senti, ma quando sfidi Totti, quindi? Non è chiaro. Che non lo so, sarebbe piacere, l'ho visto giocare a Sabaudia gli ultimi due anni in questa bellissima manifestazione. Beh, ci siamo pure incontrati, ti ricordi? Sì, certo. No, ma ragazzi, poi parliamo di padel tutti i giorni, basta, cioè non è possiamo mettere le nostre passioni così al centro del racconto. E no, però se ti sfida, se tu sfidi Totti diventa diventa argomento di cronaca, perché sì, cioè, veramente nei giornali, certo, comunque. Vabbè. Carlo, tornando al derby, ci sono due mondi, cioè il mondo che prevede la presenza di Ibra in campo e il mondo che non lo prevede. Questi due mondi sono, siccome Ibra poi alla fine probabilmente ci sarà, allora lì ruota tutto, quella è veramente la pietra miliare, capito? Perché se c'è lui tutto luccica, e improvvisamente anche gli altri ragazzi si ricordano di avere motivazioni, forza, energia e voglia di, perché il derby si vince anche così, no? È chiaro che sulla carta al momento non può non essere favorita l'Inter, ma poi ti accorgi che se c'è Ibra può accadere quella cosa, quella scintilla che solo lui ti può dare. Sì, Ibra, che non so quali siano le sensazioni, le emozioni della gente americana nei confronti di Ibrahimovic. Fosse stato in Italia, l'aver detto volevate Ibra, vi ho dato Ibra, adesso me ne vado, potete tornare a guardare il vostro baseball. Fosse stato in Italia ci sarebbe stato un paese contro, in America non credo sarà così, perché tutto sommato anche lì sono molto appassionati di superstar, e quindi credo l'abbiano metabolizzata quell'uscita non simpaticissima dello svedesone. Credo di sì, ma ti dico anche che qui l'impatto emotivo del calcio è molto, ma molto forte. Noi ieri sera eravamo a cena con due o tre italoamericani che sono qua a New York e chiaramente hanno ancora Pirlo negli occhi, cioè abitava qui, veniva sempre a cena in questo ristorante, ce lo ricordiamo ancora, cioè comunque al di là poi ovviamente Ibra era da tutt'altra parte perché era sull'altra costa, però rimani sempre sconcertato da quanto poi gli italoamericani sicuro, ma anche gli americani stessi poi si riempiano gli occhi dei nostri che magari a fine carriera vengono a far vedere qualcosa di buono ancora da queste parti. Sì. Ciao Stefano, grazie. Ciao. Divertiti. Ciao. Segna i nostri nomi per la prossima, convocazione, va bene? Noi invece niente, no, ci lasciano sempre a casa. Siamo... No, facciamoci. Siamo sempre a casa, sono abbastanza depresso. Senti, dopo il traffico ti racconto una storia che si intitola così: Sei donne a San Siro. Ok, vai. Va bene. Festival della canzone italiana, dovrebbero cambiare nome. Il primo ieri ha cantato alle 10. Ma fate cantare, che noi vogliamo ascoltare le canzoni, che poi dobbiamo andare a letto e dobbiamo lavorare. Ci mancava solo Cristiano Ronaldo stasera e l'abbiamo fatta completa. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Cosa ci fanno sei donne a San Siro, Pierluigi Pardo, secondo te? Guardano la partita, non vale? Non lo so. Facciamocelo spiegare, perché c'è Luigi Carletti, che è uno scrittore, e domani, non a caso, giorno credo non casuale, esce questo suo libro, Sei donne a San Siro. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo capire dunque cosa ci fanno sei donne a San Siro? Beh, sei donne a San Siro sono lì tra tantissime altre donne, tra i 90.000 del derby, ognuna di loro ha un suo piano e sono piani che poi sono destinati a convergere e a risultare un intreccio abbastanza all'inizio misterioso e poi ovviamente si spera appassionante. Questo è un noir, ovviamente. La scelta di ambientarla a San Siro, tanto in un'occasione specifica, un derby che si è veramente giocato nel 2008. Perché? Beh, intanto perché è uno scenario di grandissimo fascino. E in una partita realmente accaduta, il derby 2008, appunto, Milan-Inter, nell'anno in cui poi con Mancini l'Inter vinse lo scudetto. Quindi la partita è reale, la storia delle donne è fiction, la cornice è quella che conosciamo tutti e che è unica. È uno scenario memorabile per chiunque assista a un derby anche una volta nella vita. Pierluigi, tifo femminile, come è cambiato o è cambiato secondo te negli ultimi anni? Ma il calcio è totalizzante, quindi la società, fortunatamente, aggiungo io, è sempre più interdipendente, quindi non... Poi sì, probabilmente se andiamo a vedere le statistiche, all'interno di uno stadio l'80%, il 70% saranno ancora uomini, il 20-30% donne, ma mi sembra che in assoluto sia sempre di più uno sport universale. Questo valeva per il discorso che facevamo un istante fa Stefano Meloccaro sulla diffusione del calcio nel mondo, quindi anche negli Stati Uniti, dove non è lo sport più chiaramente tradizionale, lo è anche dal punto di vista del gender. Quindi ci sono grandi tifose, grandi appassionate, anche grandi esperte di calcio, e abbiamo fortunatamente adesso anche in Italia anche grandi giocatrici, quindi comincia ad esserci interesse anche sul calcio femminile. È tutto, secondo me, è tutto positivo, è tutto progresso con la P maiuscola. Sì, è stato spesso un ambiente molto maschilista quello dello stadio, non ce lo possiamo nascondere, no, Carletti? Beh, il calcio, per chi insomma, noi siamo, mi pare che qui a parlare siamo tutti uomini e tutti appassionati di calcio, e magari abbiamo anche giocato a calcio e sappiamo che è stata una prerogativa maschile, almeno fino a un po' di anni fa, in gran parte maschile, e anche il mio libro racconta appunto un ambiente che è prevalentemente maschile, ma in cui, come ricordava Pardo poco fa, le donne esercitano un peso sempre maggiore. Alcune sono, diciamo, propaggini degli uomini, cioè vanno ad accompagnare i loro compagni, i loro partner. Altre sono parte attiva del tifo e lo sono sempre di più. Le mie sei donne non sono tutte avulse dal mondo del calcio, alcune lo conoscono molto bene, solo che nella cornice del derby hanno ognuna di loro un obiettivo, e in alcuni casi è un obiettivo molto pericoloso, ad alto rischio. Sì, cioè, ci sono sei donne, c'è il derby, ma c'è anche San Siro. Ecco, San Siro che potrebbe non esserci più. Qualcuno dice l'ultimo derby impossibile a San Siro. Uno degli ultimi derby in questo San Siro magari sì. Noi ne abbiamo parlato un sacco di volte. Lei come la vede questa vicenda? Ma io ogni volta che leggo qualcosa sulla possibile scomparsa o diciamo anche ridimensionamento, cambiamento di San Siro, mi piange il cuore. Mi ricordo che quando ho scritto questo libro, perché questo libro io l'ho scritto qualche anno fa, è uscito in Francia e poi adesso esce in Italia, e sono riuscito, grazie agli addetti, all'organizzazione, a fare un sopralluogo nello stadio, che è durato alcuni giorni, e me lo sono girato veramente in lungo e in largo in ogni anfratto. E San Siro è un mondo a sé, è un ecosistema indipendente, è meraviglioso, e pensare che possa scomparire o essere destinato a qualcos'altro a me fa piangere il cuore, perché e poi è sedimentato nella memoria e nelle vite di migliaia e migliaia di persone. Quindi a me piacerebbe che San Siro durasse in eterno, ecco. Milano-Inter per lei, poi la saluto. Perché ti fa? Allora, io tra le due squadre di Milano la mia simpatia va maggiormente all'Inter, però lo dico con molta sincerità, io sono romanista, quindi... Sì, quindi il prossimo è 12 donne all'Olimpico. Esatto. Magari anche qualche uomo. O nel nuovo stadio della Roma, se mai si farà, perché sai che lì c'è. Allora si tratta di un fantascienza. Forse potrebbe fare proprio un noir. Di un fantasy. Più che un continuare una spy story sullo stadio della Roma, perché non si capisce se si parla mai. Beh, quella c'è già, no. Di fatto. C'è già, esatto. In cui si intrecciano molti generi, compresa la fantascienza, per l'appunto. La ringrazio, bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Grazie. Io però noto che su San Siro, poi sentiamo Lorenzo, la provincia di Rimini, per prima ovviamente di chiudere. Noto però che su San Siro il primo impatto, Pier, da parte di tutti noi, anche dei giocatori, ex giocatori, eccetera, eccetera, quello nessun tocchi San Siro. L'altra sera parlavo con Evaristo Beccalossi, ci capita spesso di parlare anche con gente che ci ha giocato, gente che ha vissuto dei momenti importanti dentro lì. Mi sembra che l'opinione stia cambiando, cioè va bene, rimaniamo affezionati tantissimo a quel posto lì, però alla fine vogliamo guardare oltre la siepe. Sì, ma non è che non c'è una contrapposizione, eh? La ragione contro il sentimento. Poi ripeto, non sono un tecnico, quindi non so dirti se a San Siro non si possono trovare le soluzioni adatte per poter crescere. Comunque le società fanno benissimo a ragionare su ipotesi future, perché devono pensare alla loro crescita, al loro sviluppo, ed è molto sano che questo avvenga. E ciò non toglie nulla al fascino di San Siro, quindi sono proprio i due misteri del cervello, quello destro e quello sinistro, quello della ragione e quello del sentimento. Io ti dico, mentre il nostro amico scrittore raccontava appunto quei giorni sopralluogo a San Siro, a me è venuto in mente qualche anno fa ho girato di mattina, fra l'altro col sole, in 2-3 mattine, un reportage per TV straniere. Cioè, San Siro è bellissimo anche quando è vuoto, è meraviglioso a prescindere, cioè, è proprio un monumento nazionale, non soltanto San Siro ovviamente. La bellezza degli stadi, anche quando sono decontestualizzati dalla partita, è incredibile, ma certo, direi certo. Che quello di Milano ha pochi uguali in Italia. Domani mi racconti il derby più bello che hai raccontato da telecronista. Però Lorenzo dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. Mi ha fatto piacere che abbiate parlato di tennis, come peraltro spesso anche accade, e riguardo Djokovic volevo mettere alla vostra attenzione che bene o male il tennis è ovviamente uno sport individuale, e storicamente Djokovic è un po', diciamo, della vecchia guardia, cioè il tennista fondamentalmente è un po' brutto e cattivo, insomma, perché vuole vincere. Poi c'è stato un periodo con l'arrivo di Federer e la contemporanea affiancamento di Nadal, dove c'è stato sempre un po' di buonismo, sì. Però penso che storicamente ci siano, diciamo, delle radici un po' più alla Djokovic, sì, quindi sì. È più figlio del tennis. Bravo Lorenzo, perché a noi piacciono quelli un po' così, da Pat Cash, McEnroe ovviamente, Uber Alles, ma Pat Cash, Miroslav Messier, tutti questi che... O il tuo preferito, no? La Conte. Le Conte assolutamente è il mio preferito, ma voglio dire, anche il concetto di simpatia e antipatia è molto relativo. Per esempio, McEnroe era uno che faceva delle polemiche mostruose, ha avuto dei comportamenti, certi casi sicuramente anche criticabili, però insomma sfido chiunque a dire che non fosse simpatico. Cioè, comunque voglio dire, i suoi fan ce l'aveva. Ma certo. Quindi... Insomma, no, secondo me il ragionamento è giusto, è chiaramente uno sport individuale, quindi l'elemento della leadership, l'elemento dell'esuberanza, anche di una certa arroganza in qualche caso, è un elemento che esiste, che c'è sempre stato e che in certi casi è anche estremamente attraente agli occhi dei tifosi. Molto attraente. Ciao Pierluigi, grazie. Ciao a domani. Ciao Pierluigi Pardo, Claudio Schiattone, il nostro autore. Gianmarco Veronato in regia, noi ci sentiamo domani alle 2, ciao. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni.